Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Siamo qua per ricominciare un discorso che avevamo sospeso ieri attorno alle 20, che poi a tutti gli effetti avevamo cominciato lunedì attorno alle 19, come tutte le settimane. Un discorso che tiene banco per 5 volumi di Eclettica. E sono venuto a sapere che c'è chi fra voi poi questi volumi, grazie al podcasting, li mette uno in fila all'altro e se li ascolta tutti assieme. E allora sì, che in quel caso il discorso assume molto molto più senso. Giulio Caperdoni con voi anche questa settimana, anche quest'oggi. Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo giulio@radiorockfm.com e che vi ricorda anche l'esistenza di myspace.com/eclettica. Io ti amavo nella mattina, i nostri baci profondi e calorosi, i tuoi capelli sopra il cuscino come una tempesta aurea e addormentata. Sì, molti amarono prima di noi, io so che non siamo una novità. Nella città e nella foresta essi sorridevano come me e te. Ma ora sono arrivate distanze e entrambi dobbiamo provare. I tuoi occhi sono dolci con la tristezza. Ehi, non è il modo di dirsi addio. Io non sto guardando per un'altra, così come erravo nel mio tempo. Cammina con me fino all'angolo, i nostri passi saranno sempre in rima. Tu sai, il mio amore va con te così come il tuo amore sta con me. È solo la via a cambiare, come il litorale ed il mare. Ma non parliamo di amore o catene e cose che non possiamo sciogliere. I tuoi occhi sono dolci con la tristezza. Hey, non è il modo di dirsi addio. Questa era Hey, That's No Way to Say Goodbye di Leonard Cohen. Serpents on the tartness in my chest, rest and subsides and one dulled on with a hum that split its length. Does my name sting your tongue? Now does it, babe? One rash phrase could crush this fragile day. As my thoughts swirl in some shrill, sad cannonade, and one such spur that caused my throat to creak, the one dull dawn that I've sentenced to repeat. Chi sarà stato? Un maniaco, è chiaro. Il solito maniaco. E non li prendono mai. Ciao Giulio. A chi mi chiede com'è vivere da solo rispondo che la musica è bellissima. Non ne potrei fare a meno. A chi mi chiede com'è l'amore, rispondo che baciare una donna la prima volta è incredibile, mega galattico. Non ne potrei fare a meno. A chi mi chiede se credo in Dio, rispondo che credo in tante cose più grandi di me. Però paradiso e inferno li viviamo già tutti i giorni per i significati che ognuno di noi gli attribuisce. Un pilota di superbike di qualche anno fa diceva che correre è vita, tutto il resto è attesa. Nei miei pensieri, confusi ma lucidi, dico che ognuno di noi può usare questa frase come vuole. Io dico che viaggiare è vita, tutto il resto è attesa. E nella vita c'è tanta bellezza finché siamo così bravi da trovarci la magia dentro, ma parte sempre da noi, come al solito. Quindi, ricettivi ragazzi, e ben predisposti alla ricerca. Let it slide. Notte. Sei una brava persona, Giulio. Queste erano le parole di Robert che mi hanno colpito anche nel modo di salutare alla fine, quindi ho deciso di renderle parte di Eclettica, come succede di tanto in tanto alle parole che vengono scritte a giulio@radiorockfm.com e che vi invito a continuare a mandare. Per quanto riguarda le scelte musicali di Eclettica, vi siete già ascoltati Chris Bathgate da Ann Arbor con Serpentine e poi dall'Inghilterra, Sunderland per la precisione, School of Language con Extended Holiday. Ed è ora invece la volta di una nazione che non è che compaia così spesso, ma di tanto in tanto trova spazio nelle playlist di Eclettica. Sto parlando dell'Austria e nel caso in questione di Vienna per i Tupolev, che esordiscono con il loro primo album nel mese di aprile, per la precisione a metà del mese di aprile, con Memories of Bjorn Bolsen per la Valeot Records, un disco che segue di un anno la pubblicazione del vero e proprio esordio, però su corta durata, un EP di debutto. Tupolev, che sono dal punto di vista musicale in spazi direi di post rock, con però venature folk e jazz, che hanno composto per questo loro album 9 canzoni, e io vado a scegliere la numero 2. La porta si aprì lentamente. Mio padre entrò. Io avevo 9 anni. Ed egli stette così alto, sopra me, i suoi occhi blu brillavano e la sua voce era molto fredda. Egli disse: «Ho avuto una visione e tu sai che io sono forte e religioso. Io devo fare ciò che ti ho raccontato». Così egli partì per la montagna. Io stavo correndo, lui stava camminando e la sua ascia era fatta d'oro. Bene, gli alberi erano più piccoli, il lago lo specchio di una signora. Ci fermammo a bere del vino. Poi gettò via la bottiglia. Si ruppe un minuto dopo e la sua mano prese la mia. Pensai di aver visto un'aquila, ma poteva essere un avvoltoio. Non ho mai saputo decidere. Poi mio padre costruì un altare, guardò una volta dietro le sue spalle e sapeva che io non mi sarei nascosto. «Tu che costruisci questi altari per sacrificare questi bambini, non devi farlo più. Uno schema non è una visione e non sei stato istigato da un demone o un dio. Tu che stai al di sopra di loro ora, le tue accette smussate e insanguinate, tu non eri là prima, quando mi posai su una montagna e le mani di mio padre stavano tremando per la bellezza del comando. E se mi chiami fratello ora, perdonami se indago, conciliando con quale piano? Quando esso tutto diventerà polvere, ti ucciderò se dovrò, ti aiuterò se potrò. Quando esso tutto diventerà polvere, ti aiuterò se dovrò, ti ucciderò se potrò. E la grazia sulla nostra uniforme, uomo di pace o uomo di guerra, il pavone distende il suo ventaglio». Questa era Story of Isaac di Leonard Cohen. Sorry Sorry Sarah dal bell'album The Blood on the Wall, prima ancora invece The Plot per quanto riguarda White Rabbits. E prima di passare all'ultimo brano di questa prima parte vi voglio ricordare dell'esistenza della Lista Nera. Nel caso ne sentiate parlare per la prima volta, la Lista Nera non è nient'altro che una mailing list, ovvero sia la possibilità di ricevere settimana dopo settimana direttamente nella vostra casella di posta la playlist di Eclettica, cioè l'elenco di brani, letture e film che compongono la trasmissione. Si chiude questa prima parte con l'elettronica, in quanto sono ritornati The Orb, sono ritornati con un nuovo album per la Liquid Sound, uscito per la precisione il 25 di febbraio, nuovo album dal quale vado ad estrarre una canzone che riprende nel titolo, storpiandolo, il termine déjà vu. Infatti questa è Vuja De. And you thought that was it. Hit it, hit it!